salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi direi che ci muoviamo tra Madrid e Parigi. E alcune. Devo dire 1 per 3, 2 per 6. Mi sono dimenticato. Sono, da, sono solo 1 e 9, punto. 1 e 9 basta. Salve a tutti, sono Sandro Baroni a Salpinaz. Oggi ci muoviamo tra Madrid e Parigi, quindi rimaniamo in Europa, o quasi quantomeno. Partendo da Madrid, è una pianista brava, ormai da qualche tempo già conosciuta sulla scena internazionale. Si tratta di Marta Sánchez, che per essere conosciuta a livello internazionale ha dovuto poi spostarsi a New York, naturalmente. Ha avuto modo così di incontrare anche vari musicisti e confrontarsi con il loro talento, utilizzandone poi anche nelle incisioni che ha potuto proporre. Quindi è uscito quest'anno, già quindi alcune settimane fa, l'ultimo lavoro, Spanish American Art Museum, SAM. Questo, diciamo che i talenti che compaiono in questo lavoro sono Roman Filiu, per esempio, al sax tenore. Roman Filiu, un sassofonista che ha come dire, una sorta di alter ego, ha tra l'altro una versatilità col suo sax, nel suo fraseggio, che è piuttosto libera, aperta. Ad esempio, sicuramente in alcune circostanze sembra quasi una fotocopia di Henry Tridgill, oppure in altre invece si muove più con un linguaggio cool, ma comunque decisamente un sax tenore molto interessante. In contralto invece, in questo caso, anche lui decisamente ben capace, Alex Loré, che è appunto anche qua da prova nel dialogo con Filiu, di ottime qualità. Poi Razan Carter al contrabbasso, Alan Mednard alla batteria, poi in un brano Camilla Mesa, una cantante che però non ascolteremo, come peraltro in altri brani compare Ambrose Kimusire alla tromba. Quindi diversi ospiti importanti, un risultato direi artisticamente interessante che vale la pena di ascoltare. Ne ascolteremo due brani, il brano di apertura e quello conclusivo di questo lavoro. We'll be right back. pubblico era il gruppo Marta Sanchez, pianoforte, giovane pianista madrilena, e con il suo gruppo in questo lavoro ben riuscito. Qui appunto appare abbastanza evidente quello che è il mondo creativo di Marta Sanchez, con queste sequenze di accordi un po' particolari, un po' sognanti, un po' perse. E comunque con sicuramente due sassofonisti di rincalzo veramente in buona forma. E passando a Parigi, appunto, come dicevo, un lavoro che è stato molto apprezzato alla fine dell'anno scorso, penso alle 5 stelle di Downbeat, è l'ultimo disco di Thomas de Pourquerie. È un personaggio curioso, questo, una specie di istrione, gran barbone, musicista cresciuto, un sassofonista, cantante, showman, cresciuto comunque musicalmente all'interno dell'Orchestra Nazionale de France, sotto la guida di François Jeannot, che a mio avviso è stato veramente il più importante delle guide dell'orchestra francese, che ha tra l'altro fatto, come dire, crescere una miriade di musicisti di primissimo piano francesi e non solo. Thomas de Pourquerie ha proposto questo disco con una formazione sempre piuttosto ricca. Naturalmente sono nomi non sempre, anzi tutt'altro che conosciuti, ma è soprattutto questa musica d'insieme e poi anche le sue qualità. Le composizioni sono interessanti, non sempre, ma comunque in questo caso direi che possono essere considerate tali. Disco intitolato Back to the Moon, e ne ascoltiamo tre brani appunto presi da questo ultimo lavoro. Down.

Questo era Thomas de Pourquerie, che con il suo ultimo lavoro, Back on the Moon, To the Moon, ed è indubbiamente è stato salutato come un lavoro importante, insomma, molto ben recensito, e rappresenta un po' tutte le qualità, questa cantabilità, l'aspetto, diciamo, della canzone, della composizione come canzone è quello più evidente. E poi naturalmente anche le qualità musicali sono di buon profilo. Un disco uscito appunto l'anno scorso. E, come ultimo disco, l'ultimo lavoro di Émile Parisien. Sax soprano, mio avviso, di notevoli qualità, veramente notevoli qualità, come musicalmente, cioè strumentalmente. E poi ormai negli ultimi tempi si comincia a segnalare come un leader anche di proprie formazioni importante. È un musicista che è appunto parigino, che già come sideman si è segnalato in più occasioni, diciamo che l'ultima formazione lo vede appunto guidare un gruppo importante. Un disco uscito per la Enja, per l'etichetta Enja, e viene accompagnato, il sax di Parisien viene accompagnato da una tromba molto, come dire, di questi tempi, e va per la maggiore, un nuovo talento che viene molto coccolato ormai dalla critica. Si tratta di Theo Crocker. Personalmente ho alcuni dubbi come perlomeno come leader di proprie formazioni, però indubbiamente come trombettista molto bravo, e in questo caso se ne sente anche la capacità che dimostra. Poi a pianoforte il nostro Roberto Negro, e tra l'altro Parisien collabora con Roberto Negro in diverse occasioni, già in passato ha già collaborato in molte occasioni. Roberto Negro, che abita a Parigi da molto tempo e appunto ha costruito una sua personalità e anche un suo contesto, gruppi di riferimento, è sicuramente insieme a Parisien una dei personaggi più interessanti delle nuove promesse francesi, mantenute peraltro. Poi alla chitarra elettrica Manu Kodzia, bravo. Joe Martin al contrabbasso e alla batteria, un sideman sempre affidabile come Nashed Waits. Ascoltiamo questo disco intitolato Louise, e ne ascoltiamo tre brani che dimostrano, insomma, anche proprio un po' la creatività, il mondo creativo che si muove anche su territori di musica elettronica, non è soltanto legato a una parte acustica, sicuramente, questo no di sicuro, ma è comunque sempre più la musica elettronica sta prendendo un piede cioè come possibilità espressiva. Ascoltiamo. Questo era il gruppo di Émile Parisien, con il suo ultimo lavoro, Louise. Si avverte chiaramente anche l'influenza di Michel Portal, tra l'altro Parisien ha iniziato, da quanto ricordo, la propria attività proprio con Michel Portal, e nelle fila del gruppo di Portal. Questo era anche l'ultimo ascolto per oggi. Vi ricordo che l'intera trasmissione e che le indicazioni discografiche le potete trovare nel nostro sito Radio Città Fujiko, alla sezione Musica Playlist. Salve a tutti, alla prossima!